Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. In vacanza con Obiettivo Salute. Di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Estate. Chiudiamo la prima settimana. Estate è tempo di arte di vivere, di acquisire nuove competenze, rimettere a fuoco quelle che già sono in gioco nella vita di tutti i giorni. Allora noi abbiamo pensato di fare con voi dei brevi tutorial per accompagnarvi durante i nostri venerdì, una sorta, per chi può viverla come tale, di vacanza nella vacanza. E in linea con noi, tutti i venerdì, avremo Alberto Pellai, un po' life coach, un po' ispiratore, motivatore. Intanto Alberto, ciao, benvenuto e bentornato. Grazie Nicoletta, saluto anch'io tutti e sono contento di essere il life coach, un po' motivatore, un po' ispiratore dei nostri Mi piace molto. Senti Alberto, un allenamento alla vita per utilizzare un po' questo tempo più calmo dell'estate come un tempo di allenamento a competenze per la vita. Sì, è proprio così. Effettivamente è un tempo in cui noi possiamo permetterci di mettere in gioco parti di noi che non sono in gioco magari nell'anno normale, anche se questo è stato un anno così diverso da tutti gli altri che abbiamo vissuto. E poi comunque è proprio un tempo di grande riflessione, dove noi facciamo proprio dei grandi propositi anche su che cosa vorremmo cambiare della nostra vita, come vorremmo occupare, no? Quel tempo che abbiamo davanti a noi e che è proprio un tempo che ci permette di metterci in gioco in modo nuovo. Quindi secondo me darci delle sfide raggiungibili per riflettere su di noi può essere proprio un buon modo per abitare l'estate. Senti Alberto, spiegami un po', c'è chi le chiama life skills, chi le chiama soft skills, perché sono così importanti? Ma perché sono poi noi come possiamo chiamarle competenze abilità per la vita, esatto, eccetera, insomma saper fare un po' di quel che ci vuole, come si dice. Esatto, e sono quelle competenze che tu non puoi apprendere nei contesti educativi normali, cioè non sono discipline che impari su un libro, non sono dei semplici sapere o saper fare, ma sono dimensioni che appartengono proprio al nostro saper essere, che in qualche modo definiscono poi le persone che siamo, sia in relazione agli altri, sia nel modo in cui noi impariamo ad essere con noi stessi, ed effettivamente impattano in modo potentissimo poi la qualità della nostra vita. Alberto, tu di queste competenze, life skills, come vogliamo chiamarle, ne hai selezionato 5, una per settimana. E oggi la prima skill ve la introduciamo con una canzone che tra l'altro a me piace tantissima, la so tutta. Andiamo. Dentro ai tuoi occhi, dentro le tue braccia, dentro te, ho voglia di rinascere, e ogni volta è più forte perché non c'è tempo, non c'è limite, non c'è niente di impossibile. Dentro ai tuoi occhi canta il mio Raff. A me piace tantissimo, va bene, ma questo è un dettaglio in più. Perché Alberto, oltre a farmi ascoltare Rafa, che sai che è uno dei miei cantanti preferiti, hai scelto questa canzone? In quale competenza ci aiuta a entrare proprio con l'ausilio di queste parole, di questa musica? La competenza di oggi si chiama empatia. E effettivamente, come dice la canzone di Rafa, è qualcosa che sta potentemente scritto dentro al nostro sguardo, la capacità che il nostro sguardo ha di posarsi sullo sguardo degli altri e quindi la nostra capacità di vedere quello che c'è nel mondo interno degli altri. Potremmo dire che l'empatia è la capacità di sentire l'altro, e quando l'altro la sperimenta, sente di essere stato sentito da noi, ed ecco che si produce quello che gli psicologi chiamano, con un termine apparentemente un po' complesso, sintonizzazione emotiva. Vuol dire proprio che le due menti si stanno rispecchiando, si stanno guardando l'una nell'altra, e di conseguenza noi ci sentiamo davvero compresi e capiti da chi ci sta di fronte. Vedi, lo sguardo, occhi dentro gli occhi, uno sguardo che fa da ponte e che arriva al cuore. Sì, ed è proprio tra l'altro una di quelle competenze che cresce con noi, perché comincia a strutturarsi sin dalla prima fase della vita attraverso proprio quella capacità che gli adulti hanno di guardare il bambino, che quando si vede visto dallo sguardo della mamma, del papà, delle persone che gli vogliono bene, vede in quello sguardo proprio uno specchio del proprio valore, del proprio sentirsi amato, e conseguentemente essere dentro a relazioni empatiche è anche un fortissimo strutturatore di autostima. Allora, ci piace questa empatia, questa competenza che oggi con questo tutorial vogliamo conoscere e allenare. Tra l'altro piace anche alle neuroscienze, perché è una delle dimensioni più intriganti e più studiate, tanto che sono stati addirittura individuati proprio dai ricercatori italiani i circuiti che sono alla base di questa competenza della nostra vita. Alberto, facci una fotografia. Ma guarda, sono proprio quelli che noi chiamiamo neuroni mirror o neuroni specchio, sono stati proprio una, chiamiamola così, un'invenzione proprio di un'equipe di ricercatori e neuroscienziati italiani dell'Università di Parma, coordinati dal professor Rizzolati, e la cosa bellissima è proprio questo, che attraverso studi sperimentali hanno proprio visto che quando si sviluppa uno stato di sintonizzazione emotiva, nelle due menti, nei due cervelli delle persone sintonizzati si attivano in modo perfettamente speculare le stesse reti neuronali, che sono proprio le reti neuronali che sostengono le competenze empatiche. A scuola di empatia, Alberto, negli ultimi anni l'empatia è diventata una dimensione molto presidiata anche all'interno dei progetti scolastici. Perché è così importante anche per i nostri figli, per i bambini, per i ragazzi che sono in quella fase così delicata che è l'adolescenza? Ma direi perché l'empatia è proprio una dimensione della vita che è innata dentro di noi. Noi siamo predisposti a essere empatici, ma che va anche educata e allenata, e negli ultimi decenni è una dimensione che un po' si è proprio persa nel percorso educativo, perché crescendo i ragazzi stanno moltissimo dentro a relazioni virtuali e poco invece dentro a relazioni reali. Perché ci sia un allenamento all'empatia, noi dobbiamo avere un contesto di vita reale, relazioni reali e sguardi reali che guardano lo sguardo di un altro reale. Ecco, siccome queste variabili si sono un po' infragilite, indebolite, ecco che l'empatia è diventata proprio una area su cui anche i programmi scolastici si impegnano moltissimo, ed è proprio un allenamento necessario, un allenamento alla vita, che se non c'è, per esempio, poi predispone a fenomeni di prepotenza oppure a fenomeni di bullismo, e quindi in particolare proprio in età evolutiva questa è un'area che viene molto supervisionata e molto attenzionata da chi si occupa di pedagogia. Non è mai troppo tardi, Alberto, perché dai ragazzi, e tu ci hai spiegato quanto sia importante, mi trasferirei alla fase, all'età adulta. Che differenza c'è, Alberto, tra soggetti che non hanno empatia e invece soggetti che sono empatici? Ma i soggetti che sono empatici spesso hanno proprio un grande successo sia nella propria vita personale, perché in qualche modo sanno vivere e usufruire di relazioni che sono appaganti, sia dal punto di vista amicale sia anche dal punto di vista amoroso, cioè la base per una buona relazione amorosa è proprio la sintonizzazione emotiva e l'empatia che io provo nei confronti del partner e che il partner prova nei miei confronti, la chiamiamo sintonia di coppia, sia anche dal punto di vista professionale, però l'empatia è importante, moltissime professioni si basano proprio sulla capacità non solo di saper fare bene il proprio mestiere, ma anche di saper gestire bene le relazioni all'interno delle quali noi dobbiamo gestire e svolgere la nostra professione, e l'empatia in questo senso fa proprio la differenza, cioè pensa proprio solo al lavoro del medico. A quello pensavo, ma esatto, anche di uno psicoterapeuta e di un medico che è psicoterapeuta e scrittore, ad esempio, uno a caso. E queste sono proprio risorse di base per la nostra professione, cioè la prima cosa che un paziente deve sentire quando si rivolge a qualcuno che prenderà la responsabilità del suo processo di cura è che la persona che ho davanti mi sa davvero vedere per come sono e non solo per il problema che ho. Certo, ma Alberto, c'è qualche rischio per chi è addirittura troppo empatico? Possiamo individuare, lanciare qualche campanello d'allarme e anche così aiutare le amiche e gli amici che ci stanno seguendo un po' a verificarsi sotto questo punto di vista? Ma direi che potremmo parlare addirittura di ipersensibilità, no? È quella cosa che poi in alcune persone diventa addirittura una sindrome, che in modo un po' maldestro viene chiamata magari sindrome da assistente sociale. Tu sei così sintonizzato sul bisogno dell'altro che alla fine ti spendi così tanto per l'altro senza in realtà neanche verificare che l'altro però è ugualmente sintonizzato e rispettoso dei tuoi bisogni. E quindi quello che ne potrebbe poi derivare dal sentire così tanto quello che sente l'altro è trovarsi in una zona in cui si è molto vulnerabili, molto scoperti, perché l'altro diventa un vero e proprio vampiro emotivo nei tuoi confronti, e quindi sfrutta in qualche modo la tua ipersensibilità, la tua forte capacità di sentire i bisogni dell'altro esclusivamente a proprio vantaggio, sbilanciando in modo molto forte la relazione con te. Quindi per chi si trova un po' descritto in questo profilo, la sindrome d'assistente sociale, o come viene detto, ma sei la solita croce rossina, quali sono le domande da farsi per verificare un po' il nostro ruolo e se la situazione richiede davvero un nostro intervento, oppure si rischia di cadere in una situazione a rischio? Ma di solito quando noi siamo generosi, sintonizzati sui bisogni dell'altro, abbiamo poi dentro di noi una sensazione davvero di un po' di potenza, un po' di competenza, e proprio anche ci sentiamo le persone giuste al posto giusto. Quando però ci troviamo in relazioni che diventano appunto vampirizzanti, dove siamo magari manipolati, dove siamo sfruttati, dove la nostra buona fede e la nostra sensibilità sono esclusivamente usate per il vantaggio dell'altro, ecco che improvvisamente ci troviamo in un altro territorio, cioè ci sentiamo svuotati, ci sentiamo anche profondamente perturbati, abbiamo la percezione, non siamo più le persone giuste al posto giusto, abbiamo questo senso di confusione e non capiamo più se quello che stiamo facendo è giusto o sbagliato, se noi siamo le persone giuste o sbagliate di fronte a quella persona. Ecco, questo stato di confusione, questo non saper più ritrovare se stessi dentro se stessi, direi che è uno dei campanelli d'allarme principale. Tu hai scelto per noi dei percorsi che proprio ci aiutano a prendere consapevolezza di quella competenza, ma anche a lavorarci su in modo piacevole, soprattutto in questo periodo che, come abbiamo detto in apertura, l'estate con i tempi più lenti può essere un'occasione per riprenderci un po' in mano. È proprio così, le storie che noi troviamo dentro un libro oppure le narrazioni che ci sono dentro un film ci permettono in totale sicurezza emotiva di esplorare dimensioni che ci appartengono senza che noi siamo lì coinvolti in prima persona, e quindi diventano davvero delle grandi palestre dove poter permettere alla nostra mente di mettersi in gioco proprio confrontandosi con la storia di un altro, identificando identificandosi nella storia di un altro. E poi ci sono anche i cosiddetti libri, per esempio, che noi chiamiamo di self-help, cioè di autoaiuto, che hanno dentro proprio tracce di allenamento e di apprendimento che spesso mettono dentro di noi competenze, informazioni che magari ignoravamo e che quindi ci permettono di produrre cambiamenti significativi nella nostra vita. Allora, Alberto mio caro, come ti chiamo? Life coach, professor Pellai? Direi di andare avanti con Alberto. Va bene, mi piace perché è compagno di viaggio, molto empatico. Comunque abbiamo visto che i libri sono molto importanti, noi ne abbiamo scelto uno di cui abbiamo in linea anche l'autore, Sava Sandir, ma eccoci qua, prima di presentarvelo vi facciamo ascoltare l'incipit del suo nuovo romanzo. Mi sono chiesta molte volte quando è che diventi grande, quando è quel momento in cui prima eri bambina e poi non più. Se c'è da qualche parte, che ne so, una linea, qualcosa che segni un di qua e un di là, la superi e allora vuol dire che sei nel mondo dei grandi. Quando compi 18 anni, quando finisci l'orale di maturità, quando ti sposi. Non è facile trovarlo quel momento, perché ognuno è diverso, ma oggi, a quasi 20 anni di distanza da quell'estate, con queste foto in mano e sulla pelle il calore di quei giorni ancora appiccicato addosso, mi viene da dire che non diventi grande quando prendi la patente, quando sei maggiorenne o quando finisci la maturità. Diventi grande il giorno in cui, per la prima volta, hai un segreto. E questo è l'incipit del nuovo romanzo di Enrico Galiano, Dormi stanotte sul mio cuore, Garzanti Editori. E Enrico Galiano naturalmente l'abbiamo in linea con noi, l'abbiamo acchiappato per voi. Ciao Enrico! Ehi, ciao, come state? Noi stiamo bene, e a obiettivo estate con noi, certo. Senti Enrico, tu sei diventato il professore, diciamola tutta, più amato d'Italia con i tuoi video. È vero, insomma, diciamo molto molto molto amato, Alberto, possiamo dire così, amatissimo. È proprio così, ha proprio una schiera di fan e di follower da fare invidia a una pop star. Perché te la ridi, ma i video sui tuoi social, i tuoi libri, i tuoi post sulla scuola, tu hai davvero permesso di vedere la scuola e anche la figura di voi docenti, di voi insegnanti in modo completamente nuovo. Oggi parliamo di empatia e Alberto ci ha suggerito proprio il tuo libro per approfondire questo tema. Allora, intanto Alberto, perché il libro di Enrico Galiano? Ma perché ci fa proprio entrare a specchio nelle menti dei suoi protagonisti. Ci sono due personaggi incredibili che sono Mia e Fede, due ragazzi, quindi per noi genitori è anche un modo per entrare nelle menti dei nostri figli. Hanno una vita con tante salite e tante discese, una storia bellissima, ed è proprio un modo incredibile per comprendere quanto i vissuti emotivi in adolescenza necessitano proprio di essere visti e accolti per poter essere attraversati, che è quello che fa la funzione empatica poi dell'adulto che sta a fianco di chi cresce. Enrico, sei rimasto senza parole, di la verità. Sì, infatti io mi chiedo se c'è un podcast che si può scaricare dopo registrarmi quello che ha detto Alberto. Quando sono depresso lo riascolto e così. Vero, io in tanti anni che lo conosco mai una volta, è vero che, però insomma io sono qua sempre che aspetto, così anche io prendo il podcast, lo scarico, poi quando mi sento un po' giù me lo risento. Senti Alberto, tu sei un docente di lettere della scuola media inferiore, quella che oggi chiamiamo secondaria di primo grado. I ragazzi di oggi, secondo te, come stanno messi ad empatia? Purtroppo c'è come un doppio movimento, nel senso che quando io li vedo arrivare in prima media... Che sono piccini, diciamo la verità. Quando sono piccini è una delle cose più strabilianti che hanno, come se fosse una sorta di superpotere, come se ce l'avessero... se avessero un arto in più, non so come spiegarlo, però senti che proprio magari fanno una grande difficoltà a capire che cos'è un complemento oggetto, no? Ma ci mettono 10 secondi netti a capire come stai, se hai una giornata storta, se hai bisogno di qualcosa, lo sentono, lo percepiscono subito. Hanno le antenne, non si vedono ma le hanno. Esatto. Quindi c'è questo superpotere, però ho anche allo stesso tempo la sensazione che venga sempre meno utilizzato, perché per esempio quando invece sono fra di loro, quindi diciamo nei rapporti più orizzontali, viene un po' a mancare, nel senso che spesso si fanno del male tra di loro senza rendersene conto. Credono di scherzare, credono di giocare e lasciano in realtà delle ferite che, a seconda di chi è, diciamo, il ferito, possono restare lì anche per molto molto tempo, perché in base alla sensibilità di chi si sente attaccato, di chi si sente deriso, di chi si sente messo alla berlina, ecco, dagli altri, può essere qualcosa, sai, se c'è 11 anni. Credo che tutti noi, compresi voi due, anche Alberto, abbia qualche ricordo di qualche battuta. Senti Alberto, l'ha detto proprio come dire voi che siete lontani nel tempo, che forse non vi siete neanche più ricordati, non ricordate neanche più le medie, ma Alberto è così. Io sono, guarda, vabbè, facciamo finta di niente, noi siamo gentili ed empatici. No, scherzo Enrico, volevo chiederti, secondo te l'empatia dei nostri ragazzi durante il ritiro sociale e il confinamento che hanno vissuto, ne ha patito? Credo che dovremmo ancora quantificare, cioè è ancora un po' presto per capire in che cosa e quanto hanno, però sì, io sinceramente, dopo naturalmente le vittime del virus, dopo chi lavorava in ospedale, chi era in prima linea, eccetera, metto i ragazzi veramente al primo posto fra quelli che hanno subito di più le conseguenze di questo periodo, perché per loro l'interazione sociale, l'interazione con gli altri, si è sempre detto in questi anni che i ragazzi sono iperconnessi, staccati dagli altri, non fanno più, e poi sai, signora mia, che bei tempi di una volta, ma la verità, e l'abbiamo vista adesso, è che i ragazzi hanno un bisogno pazzesco degli altri, del contatto con l'altro, e sentirli privati ha avuto sì delle conseguenze. Alcuni ne sono venuti fuori bene, ma altri ho visto che dopo un mesetto e mezzo hanno cominciato lentamente a spegnersi, come come se rimancasse un po' l'energia, la carica. Alberto, abbiamo sempre molti genitori che ci seguono, noi li ringraziamo, siamo contenti, ci scrivono, chiedono di te, di Alberto Pellai, adesso chiederanno naturalmente anche di Enrico, ma ci sono consigli che puoi dare per queste settimane estive per facilitare per i nostri figli il potenziamento di questa competenza? Insomma, li mandiamo a scuola di empatia? Ma direi intanto permettere a loro di vivere intensamente un contatto, visto che non possono moltiplicarli, ecco, la vicinanza con una persona della famiglia allargata, che potrebbe essere proprio un familiare più bisognoso oppure un vicino di casa più bisognoso, nei confronti dei quali mostrare proprio che sanno mettersi in gioco, sanno un po' sintonizzarsi con i bisogni dell'altro. Poi direi di andare a recuperare, magari in quest'estate, anche a distanza, la relazione con un familiare o con una persona conosciuta in qualsiasi contesto con cui si ha voglia di rimettersi in gioco, perché potrebbe essere proprio un modo con cui coltivare una relazione che abbiamo un po' lasciato nel cassetto. E poi decisamente sostenere i nostri figli proprio anche con un nutrimento fatto di storie, i libri in questo senso sono proprio delle risorse incredibili, e permettere a loro, ecco, di leggere delle storie dove davvero si confrontano con vicende che sono molto sfidanti, molto coinvolgenti e che li obbligano un po' a mettersi nei panni degli altri. Chiudiamo con un saluto e una battuta del nostro prof? Sì, una cosa che secondo me, voglio aggiungere un altro consiglio. Ma sì. A quelli di Alberto, anche la scrittura può essere veramente un viatico sia di comprensione di sé, ma anche di comprensione di quello che sta succedendo, e inoltre come testimonianza, perché è stato un evento, anzi uso il presente, un evento epocale quello che ci è arrivato addosso, e avere traccia anche scritta, racconto per gli anni a venire potrebbe essere veramente un'occasione anche per conoscersi e conoscerci meglio. Ringrazio Enrico Gagliano che è stato con noi. Certo. Ad Alberto Pellai invece lo ringrazio sicuramente, ma Alberto, noi ci sentiamo venerdì prossimo, quindi è un arrivederci. A venerdì, al prossimo venerdì.